La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. L'articolo 27 riguarda soprattutto l'esecuzione delle pene e innanzitutto pone la garanzia che la responsabilità penale è personale, quindi non si può essere chiamati a rispondere per fatti altrui. Questo ovviamente è un grande caposaldo di civiltà giuridica perché la responsabilità oggettiva non può esistere. Abbiamo alcuni casi particolarissimi della responsabilità, per esempio per le persone giuridiche, la responsabilità per i minori in custodia, ma sono casi marginalissimi. Il punto essenziale, che soprattutto riguarda il diritto penale, quindi la massima punizione da parte dello Stato, che la responsabilità è personale. Ma accanto alla personalità della responsabilità c'è la presunzione di innocenza, che è un altro grande principio fondamentale, che fino alla condanna definitiva non si è considerati colpevoli. Anche questa ovviamente è una garanzia, perché avendo un sistema giudiziario che prevede 2 o 3 gradi di giudizio, perché abbiamo i giudici di merito e poi la Cassazione o il Consiglio di Stato, fino alla sentenza definitiva del giudice non c'è sicurezza giuridica che quel fatto si sia verificato e che si sia stati condannati. Quindi fino alla sentenza definitiva si presume che si è innocenti. Ovviamente questa è una garanzia importantissima, anche se talora, soprattutto per le persone sotto processo, ci possono essere sospetti che questa durata lunga del processo possa favorire che persone restino in carica anche durante il processo. Cosa intendo dire? Intendo riferirmi soprattutto alle ipotesi in cui abbiamo delle persone politiche sotto processo, in cui da un lato ci si difende dicendo c'è presunzione di innocenza, dall'altra invece si replica sostenendo che com'è possibile che un uomo politico sotto processo resti in carica. Anche qui il bilanciamento fra i principi è molto delicato e comunque la Costituzione garantisce che ci sia la presunzione di innocenza, quindi è pienamente legittimo restare in carica fino alla condanna definitiva. Poi le ragioni di opportunità sono tutta un'altra cosa. Ancora, altri 2 principi importantissimi dell'articolo 27. Innanzitutto non è ammessa la pena di morte. Questa è stata una riforma costituzionale importante, recente, perché inizialmente il testo prevedeva che la pena di morte era ammessa solo in caso di guerra del codice penale militare. Invece, con un'importante riforma di civiltà giuridica, è stata esclusa in ogni caso. In Italia la pena di morte è vietata in qualsiasi caso e questo, abbiamo detto, vale anche reciprocamente rispetto agli altri stati con l'estradizione. Ultimo punto, anche questo importantissimo, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e tendono alla rieducazione del condannato. Quindi la carcerazione deve ispirarsi al principio proprio della rieducazione, cioè il fatto che il detenuto debba rientrare nella società e rientrando nella società debba parteciparvi pienamente. E quindi ecco una curiosità. L'ergastolo è costituzionalmente legittimo? Questo è un classicissimo tema, perché ovviamente il carcere a vita non dovrebbe tendere alla rieducazione, perché dovendo stare il detenuto in carcere tutta la vita non c'è scopo rieducativo. E invece la questione si è posta più volte ed è sempre stato ritenuto l'ergastolo costituzionalmente legittimo. Questo perché? Perché esistono comunque dei benefici di pena, per cui anche il condannato all'ergastolo, dove tenga una condotta particolarmente esemplare e mostri la sua piena rieducazione, potrà avere delle formule alternative dopo un certo numero di anni di condanna che portano anche l'ergastolo ad essere una pena rieducativa.